scordare le tue labbra rosse, il tuo culo su di me, il prosperoso seno, e penso a te, e penso a te, e penso a te. La mia mano che scende per consolarmi, la mia mano che scende per consolarmi. E penso a te, e penso a te, e penso a te. E penso a te, e penso a te, che non ci sei qui con me, non ci sei qui con me, non ci sei. Spargo la mia sensibilità, fra tovaglioli e lenzuola, spargo la mia sensibilità, fra tovaglioli e lenzuola, spargo la mia sensibilità.